Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siete sempre in ascolto di 451 Intersezione, sempre in ascolto chiaramente a quest'ora della notte su Radio Città Fujiko, spazio legato alla sperimentazione, alla ricerca sonora e anche a qualche provocazione musicale e non solo. 451 Intersezioni va in onda sempre ogni giovedì notte dalla mezzanotte circa fino all'una e mezza circa. Ricordiamo sempre che il nostro programma radiofonico fa parte di un network costituito da 451 intersezioni, cioè la puntata e la trasmissione di questa sera, ma anche 451 frammenti sonori, che è condotta dall'amico e compagno Max Macchia ogni mercoledì notte dalle 23 all'una circa. E ricordo sempre lo spazio che abbiamo creato quest'anno nel nostro network 451 di Futuri Rumori, questo spazio che ormai Max dedica quasi ogni puntata, tranne alcune puntate speciali, tipo la doppia puntata dedicata a Prince, che ricordo sempre molto molto ben elaborata, molto bella e molto suggestiva, un omaggio splendido a questo grande autore che ha attraversato la musica del Novecento e anche degli anni zero, importantissimo nell'ambito pop e non solo. Appunto Futuri Rumori è spesso utilizzato come contenitore all'interno di 451 frammenti sonori. Di che cosa tratta? Tratta fondamentalmente di autori, musicisti, progetti underground, sottoterra o nel sottosuolo più profondo, da parte di progetti sia italiani che europei che internazionali, hanno mandato in questi mesi al nostro spazio radiofonico materiali, appunto, che il buon Max inserisce all'interno di puntate speciali, appunto, per dare spazio e voce alle musiche sperimentali e di ricerca nell'attualità degli anni 10 ormai, nel 2016, spazio che appunto spesso è utilizzato come appunto negli ultimi mercoledì da Max Macchia all'interno di 451 frammenti sonori. Se volete avere informazioni andate comunque sul nostro blog No Blog, che è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. Troverete le due spazi, 451 intersezioni e 451 frammenti sonori, dove troverete anche le informazioni se volete mandare materiali a noi come progetto per Futuri Rumori. A questo punto una buona serata da Elisio Scarpa, che conduce la puntata di stasera. Ritorniamo dentro invece una sorta di ambiente o ipotetico mondo favoloso, puntata che abbiamo mandato in onda lo scorso gennaio, che rientriamo, diciamo, come capitolo 2 anche stasera, anche perché ve l'avevo annunciato ai numerosi e migliaia di ascoltatori che seguono 451 intersezioni la notte su Radio Città Fujiko. Ovviamente scherzo, ma spero sempre che possano esserci casualmente o che possano aumentare nel tempo. Che a gennaio scorso appunto avevamo fatto questa puntata Mondi Favolosi 1, che aveva nel suo, diciamo, ventre la continuazione in Mondi Favolosi 2, che appunto sarà stasera 26 maggio, ormai 27 maggio 2016. Mondi Favolosi 2, trattiamo meraviglie, allucinazioni, percorsi fantastici e liberati all'interno di un percorso sonoro che spazierà dall'ambient al drone, ma anche a dimensioni di No Music e di Failed Recordings, o di suggestioni addirittura legate a una sorta di sonorità appunto fantastica, legata a dei mondi appunto favolosi, come è intitolata la puntata di stasera. Nella puntata del passato, abbiamo del passato inteso appunto come capitolo 1 a gennaio, abbiamo inserito vari autori, tra cui uno che ritroveremo anche stasera, perché è stato, diciamo, l'animatore, la musa ispiratrice di questa puntata, cioè Tom Rackham, questo personaggio assolutamente assurdo e fantastico lui stesso, che ha attraversato soprattutto il progetto Los Angeles Free Music Society, progetto collettivo aperto a sperimentazioni, a performance, a installazioni sonore, anche a vere e proprie improvvisazioni in luoghi occupati al momento, progetto che aveva attraversato la scena di Los Angeles molto ricca e molto intensa negli anni 70 in maniera assolutamente dirompente. Poi ha continuato chiaramente Tom Rackham le sue produzioni anche personali, altre collaborazioni e altri progetti collettivi nel corso degli anni, fino ancora a produrre anche in questi ultimi anni album sicuramente suggestivi. Lo ritroveremo anche stasera con l'ultimissimo album uscito proprio da pochissimi giorni, molto molto legato a una concezione di No Music, quasi appunto di estetica dell'assenza per certi versi, e molto legato al Field Recording. Sembra di stare in mezzo a una campagna con suoni di uccelli, di animali vari, del vento, del ruscello, appunto in maniera anche abbastanza provocatoria, ma sotto c'è anche una sorta di traccia musicale che ricorda le sperimentazioni che aveva sviluppato Tom Rackham negli anni 70 in Los Angeles Free Music Society, quasi come un eco dal passato in un mondo appunto favoloso. Ma noi non apriamo così, dunque vi spiazzo in una certa maniera, ma apriremo con due autori piuttosto recenti, anche piuttosto giovani, Felicia Atkinson e Jeffrey Cantu Ledesma. Poi troveremo Thomas Bezdarznik, giovanissimo autore, e poi Wind and Carl, altro progetto che ha attraversato alcune volte 451, sia intersezioni che 451 frammenti sonori, lo stesso Tom Rackham. Ma adesso apriamo invece col progetto di Growing, che si muove su una scena di ambient drum, ma anche in un certo senso anche di abstract music, un progetto che è stato costituito nei primi anni zero da Ian Ross, Joe Edernardo, Kevin Doria e Sadie Lesca. Con la Cranky ha fatto uscire parecchi album, noi ascolteremo in questa serata di Modi Favolosi 2 un album uscito per la Social Registry nel 2008, All the Way, che si muove appunto in un territorio ambientale, ma solo in parte, perché c'è appunto un aspetto molto astratto, appunto, che quasi possa rimandare appunto dei mondi a delle dimensioni parallele favolose, che in questi tempi grigi, soprattutto in questi giorni di campagna elettorale che ci stanno devastando in termini generali, poi entreremo nel merito qui a Bologna, andiamo insomma a migrare in un mondo favoloso, e apriremo con Growing, con questo splendido lavoro All the Way, uscito nel 2008. Buon ascolto da 451 intersezioni da Alessio Scarpa. Thank you. Thank you. E siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato Growing, splendido lavoro, questo album uscito, ricordo ancora se non l'avevo già fatto prima nel 2008, All The Way. Abbiamo ascoltato una traccia che racconta un po' il suono, assolutamente suggestivo, questi synth utilizzati con effetti particolari, creando appunto quasi una sorta di cascata di strutture che si vanno ad incastrare, un suono molto particolare, molto originale, una formazione da seguire, una formazione nata tra il 2003 e il 2004 e dunque è soltanto una decina d'anni che è sulla scena musicale nell'ambito sperimentale, etichettata molto nell'ambito ambient, ma ultimamente negli ultimi lavori c'è un'astrazione maggiore, concettuale, anche sonora, che viene, diciamo, portata avanti da Growing, che si sente già anche in questo album, seppur precedente del 2008, ma che io ritengo uno dei più belli fatti uscire da Growing. In questo caso l'abbiamo appunto selezionato perché si adattava perfettamente all'idea di stasera di Mondi Favolosi 2. E dentro questi mondi favolosi, appunto alla ricerca di mondi alternativi, di dimensioni fantastiche, di allucinazioni anche per alcuni versi, li ritroveremo spesso in atmosfere che possono ricordare sogni, allucinazioni, incubi, ma anche delle forme quasi psicadeliche, dimensioni mentali, sonore, spaziali o temporali, anche quasi deviate da uso di droghe di tutti i generi, una dimensione appunto fantastica che ritroviamo anche dentro il progetto di Tomasz Beznarczyk, nome abbastanza impronunciabile, autore polacco molto giovane che purtroppo si è fermato, ha iniziato il suo primo album che è stato prodotto dalla Room 40 nel 2008, sono usciti poi due album nel 2009 sempre per la Room 40 e poi si è fermato, ha fatto uscire soltanto qualche EP tra il 2011 e il 2013, ma sono tre anni che Beznarczyk non fa uscire nulla, nemmeno con altri progetti paralleli. Un peccato, perché i primi album di esordio dal 2008 al 2009 sono stati sicuramente interessanti, in particolar modo proprio l'ultimo album che andremo a ascoltare con due tracce proprio estratte da questo album, Painting Sky Together, uscito nel 2009, uscito sempre per la Room 40, dove esprime veramente con particolare personalità il suo modo di concepire una sorta di post ambient drone e atmosfere sicuramente suggestive e fantastiche per certi versi. Peccato che Beznarczyk si sia fermato, speriamo che riprenda, alle volte alcuni autori si possono anche fermare qualche anno e poi può uscire anche un piccolo capolavoro, lo aspettiamo perché era un autore giovane molto interessante che avevamo già scoperto qualche anno fa, qualche tempo proprio dopo l'uscita di questo album, poi purtroppo si è fermata un po' la produzione sonora. E appunto di mondi favolosi che andiamo a ricercare stasera, guardate proprio, anzi ascoltate, perché guardate è impossibile, ascoltate, nel senso che stasera proprio avevo la necessità di portare avanti questa idea, perché ultimamente siamo veramente massacrati anche non soltanto dal punto di vista televisivo o attraverso i vari canali virtuali che stanno facendo da cassa di risonanza per le elezioni amministrative, insomma ultimamente il clima anche a Bologna è abbastanza plumbeo e pesante, da sgomberi che sono avvenuti i mesi precedenti prima delle elezioni quasi a creare una sorta di atmosfera di sicurezza cittadina della bella borghesia che si vuole sentire tranquillizzate degli interessi forti, sgomberi su sgomberi, e si è arrivata anche a quel tentativo di occupazione dopo la manifestazione di sabato scorso, che è stato ovviamente subito bloccato al principio. E ultimamente c'è anche una sorta di militarizzazione continua di luoghi che potrebbero essere a rischio manifestazione o contestazione, prima con la mostra della street art a Bologna che per giorni è stata presidiata a Palazzo Peppoli da celere, da carabinieri e quant'altro, un clima veramente intollerabile, poi ultimamente con le comparsate di quel bel simpaticone di fascista di Salvini, con continui appunto schieramenti di celere di polizia, come mi è capitato anche a me stasera di incontrare sotto le due torri, tutto sbarrato, pieno di polizia e di celere, insomma un clima molto pesante, proprio che dà l'idea del regime che vuole piazzare, vuole comunque blindare quelli che dovrebbero essere i punti di riferimento dei poteri forti e del capitale, al di là dei giochini tra Renzi e Salvini, il gioco insomma delle due carte, far vedere che uno è contro l'altro, in realtà sono assolutamente intercambiabili e compatibili, seppur su due direzioni differenti, dentro appunto un sistema che vuole controllare un po' tutto, e anche le forme di protesta, anche quelle più blande, vengono represse o comunque mantenute a distanza, appunto con cordoni di sicurezza allucinanti. Insomma, girare a Bologna in questo periodo con tutti i vari candidati dei vari leader nazionali che devono sostenere i candidati sarà abbastanza improponibile, soprattutto per noi come 451 che abbiamo posizione sicuramente antagonista a questa forma di potere, a questa forma di politica dall'alto che non ci appartiene, non ci è mai appartenuta, anzi che abbiamo sempre combattuto, ma ultimamente mi sa che ci dovremmo abituare almeno fino alla elezione a questo clima abbastanza pesantuccio. In ogni caso qualcuno ha manifestato, qualcuno ha protestato anche oggi contro Salvini, e comunque qualcosa bisogna comunque fare, almeno per far sentire la voce di chi non vuole stare dentro questo giochino elettorale, a questo gioco tra partiti e partitini che fondamentalmente devono essere dei delegati di poteri forti che devono stare lì insomma a utilizzare la propria poltrona, utilizzare la propria faccia per fare propaganda di qualsiasi tipo, legato ovviamente a forme di repressione, di razzismo, di violenza in tutte le forme possibili e immaginabili, sia quella bella dorata, incravattata di quelli che fanno i finti democratici e dicono comunque di accogliere tutti se poi abbandonarli a loro stessi, sia quelli che vorrebbero appunto quasi bombardare i barconi come la Lega e Salvini e non far arrivare nessun profugo e nessun immigrato in questo questa cara fortezza Europa. Insomma, si aprirebbero molti minuti di discussione, di ragionamenti sulla fase politica attuale, ma sicuramente non è un mondo favoloso quello che attraversiamo in questi anni. Per questo, attraverso queste musiche, proviamo a raccontare, a narrare possibili, variegati, multiforme, multicolore, mondi favolosi dove appunto non impera questa tristezza e questa mischinità presente invece nell'attualità italiana, europea, mondiale di questi anni. Andiamoci dunque a immergere nella musica di Thomas Bernhardsik, album Painting Sky Together 2009, è meglio immergersi in questa atmosfera, sicuramente, almeno per quanto mi riguarda. Poi se qualcuno invece è contento di stare in questa bella melma, va bene così, insomma sono pronto al confronto. Buon ascolto ancora, e dunque 451 intersezioni, Thomas Bernhardsik. E siamo ritornati in diretta, splendido anche questo lavoro, anzi queste due tracce collegate di Thomas Bebenarczyk. Ogni volta che devo pronunciare questo cognome mi impappino, ma d'altronde è un nome particolare, autore polacco, ricordiamo ancora l'album in questione che abbiamo ascoltato, queste tracce da Painting Sky Together, uscito nel 2009 per la Room 40. E rimanendo dentro l'atmosfera un po' astratta, ambientale, in questo senso ritroveremo invece molta astrattezza e molta field recordings, registrazioni microfonate, ovviamente agli esterni, con suoni ambientali dal vento all'acqua, agli uccelli, ai vari animali, quasi fossimo in una fattoria ipotetica. È anche un modo particolare, quasi a creare un'atmosfera paradossale, sonora, che Tom Rechion crea questo suo ultimo lavoro. Dopo 4 anni di assenza dalle produzioni, l'ultimo album era uscito nel 2012, Proscenium, per l'Elevator Bath, e sempre per l'Elevator Bath come etichetta è uscito proprio il 22 aprile di quest'anno, dunque veramente un mese fa soltanto, l'ultimo album, Oaxaca Down Bamboo, sempre appunto per l'etichetta Elevator Bath, l'ultimo lavoro del grande Tom Rechion, musicista poliedrico, non solo musicista ma anche artista di arti visive, di installazioni sonore, compositore anche di musiche per cartoni animati, per pubblicità deliranti, un musicista tutto tondo, un artista che ha mantenuto quell'approccio quasi dadaista che rappresentava un po' il fondamento della sperimentazione, delle provocazioni di Los Angeles Free Music Society, progetto collettivo aperto a varie contaminazioni, a provocazioni, come dicevo prima, che negli anni 70 avevano attraversato Los Angeles, e non solo, occupando stabili, facendo performance per alcuni giorni finché non arrivava la polizia, performance improvvisate, progetti che venivano costruiti sul momento, con partecipazione anche dei spettatori o comunque di curiosi che poi attraversavano questi progetti che diventavano dei veri e propri happening. Los Angeles Free Music Society, oltre a Tom Rechion, che è stato uno degli ideatori di questo contenitore aperto musicale, non solo, ha attraversato anche moltissimi altri progetti che vedeva lo stesso Rechion, ma tantissimi altri musicisti che poi si ritrovavano, costruivano progetti, gruppi di musica che attraversava il rock, il post-punk, la new wave, il jazz, l'elettronica, l'improvvisazione radicale, il no sense in tutte le sue forme musicali, insomma un caleidoscopio completo di sonorità e di sperimentazioni. Tom Rechion, dunque, ce l'andiamo a ascoltare proprio nell'ultimo lavoro, con questa parte da field recordings di un quarto d'ora, ma dove emerge a un certo punto appunto un eco da lontano, appunto quasi a raccontare un altro mondo favoloso del passato che si incrocia e si interseca con quello attuale o di un futuro ipotetico, un richiamo alle sonorità con suggestive, con questi suoni che Rechion riproduceva, rimasterizzava e attaccava basi musicali anche che potevano ricordare musiche sudamericane o atmosfere filmiche d'anni 70, stile Morricone, che lui stesso poi tagliava, cuciva e manipolava, creando un suono oltretutto molto riverberato, appunto quasi da un eco di un sogno, di un'allucinazione, che raccontava una sua sonorità assolutamente originale. E qua lo sentiremo in questo brano, quasi un omaggio a se stesso, alle sue sperimentazioni del passato, dentro invece una sperimentazione di una registrazione, di una microfonazione, di un presente, quasi appunto agreste e campagnolo, che voglia forse rappresentare un mondo favoloso che forse c'è anche nella nostra attualità, nella nostra realtà, nel nostro mondo, ma che forse non riusciamo più a cogliere o a individuare. Ce la diamo ad ascoltare, dunque, dall'ultimo album. Tom Rechion, ricorda ancora l'album, che così in caso ve lo andate a cercare o trovare o recuperare, l'album è Oaxaca Down, uscito appunto il 22 aprile del 2016. Godiamoci dunque la pazzia e le allucinazioni di Tom Rechion. Ah! Thank you. Thank you.